Io sono Michele Martini, sono uno studente di segno ottica del dottorato di Bologna. Ho appena finito il primo anno, quindi sono qua agli inizi. Ringrazio il caso di avermi invitato. Spiego brevemente perché sono qui, in un certo senso, visto che non sono uno storico, ma per quella che è stata la mia ricerca, sia per la tesi quinquennale che adesso per il dottorato, ho incontrato, diciamo, dei problemi che penso riguardino anche la storia, nel senso che nella discussione con gli amici del caso S, poi questa cosa è emersa e abbiamo deciso, insomma, di portare anche, spero possa essere utile questa parte della mia esperienza di ricerca. Io mi occupo in particolare di conflitti e di costruzione identitaria e di costruzione della memoria all'interno dei conflitti. Ho cominciato la tesi quinquennale riguardante il conflitto del Kosovo e adesso sto proseguendo invece per il dottorato riguardo all'identità della popolazione palestinese e della West Bank. In particolare per quanto riguarda le dinamiche che si sviluppano sul sito di YouTube. Adesso, come cominciare? Allora, prima di tutto volevo introdurre un attimino quello che è il mio punto di vista. Semiotica ha un punto di vista un po' diverso, insomma. Nel senso che all'interno di quella che è detta normalmente semiotica della cultura, il discorso storico, il testo storico esiste in quanto testo e fa parte di quelle che vengono dette autodescrizioni metastrutturali, cioè dei testi con cui la cultura parla di se stessa ed è strettamente legato ai problemi della memoria e dell'identità. A mio parere questo legame che per cui la semiotica parte in maniera data, appunto di partenza, diventa particolarmente rilevante poi quando si va a lavorare su internet. Come è cominciato? Nel senso, come è arrivato questo problema? Fondamentalmente è nato. Mi sono accorto di questa cosa qua, dell'importanza che potevano avere le dinamiche delle testimonianze, non solo, ma anche delle rielaborazioni storiche che vengono messe nonché dei commenti, delle pratiche quotidiane che vengono messe in atto dai giovani in particolare in una situazione post-conflitto in Kosovo, quando sono stato in Kosovo per diverso tempo, e ho notato che moltissimo la popolazione giovanile, i più giovani, utilizzano YouTube come una vera fonte di informazione e costruiscono la propria identità e moltissime delle informazioni che ricevono ricercando il materiale su YouTube. Da lì è nata un pochettino l'idea di chiedersi come l'esistenza, insomma, di pratiche online potesse modificare, contribuire alla costruzione di un'identità politica e di una memoria, fondamentalmente, di ciò che è stato un conflitto. Nel campo specifico di memoria traumatica. A questo riguardo ho una piccola storia che è interessante. Mentre mi trovavo in Kosovo ho conosciuto un anziano di nome Vido Jokic, il quale durante la guerra non era potuto fuggire dalla sua casa perché è troppo anziano e quindi era rimasto nella sua casa di abitazione, mentre all'esterno avvenivano i bombardamenti e tutto quello che conosciamo. Questa persona ha lasciato un diario ed è molto interessante perché in nuce rappresenta quella dimensione liminare tra micro e macro storia che su YouTube diventa centrale, cioè questa fortissima connessione tra i due elementi. Lui ha lasciato questo diario in cui annota parallelamente quello che succedeva nel villaggio, un villaggio minuscolo di poco più di 700 persone oggi, molto più piccolo, e quello che diceva la televisione. E lui cercava di ricostruire cosa stava facendo fuori dalla sua casa, fondamentalmente, perché lui si trovava esattamente sotto le bombe, e quindi la sua idea, la sua memoria storica di quello che è stato il conflitto del Kosovo era questa specie di commistione tra una memoria ufficiale dei telegiornali e così e la vita quotidiana all'interno di questo piccolissimo villaggio. Ecco, questa dinamica si ritroverà secondo me ovviamente immensamente amplificata all'interno dei siti di YouTube. Allora, quando ho cominciato a pensare a un lavoro di questo tipo, la prima domanda che viene spontanea è, che sembra banale, ma che cos'è YouTube? E questa è una domanda che ha molte risposte, cioè funziona come un social network, è un sito di broadcasting, cioè un sito all'interno del quale il materiale inserito diventa fruibile a tutto il resto della comunità o degli utenti. È un archivio, funziona più o meno come un archivio, cioè un contenitore, un archivio di video, mutevole, nel senso che cambia nel tempo, non è un deposito stabile, come vedremo. È un sistema informatico, nel senso che all'interno di questo sito esistono degli algoritmi, dei filtri, che regolano la fruizione del materiale presente nel sito, che è enorme. Filtri che riguardano ad esempio la localizzazione geografica per dirne uno, ovvero se tu ti trovi in un determinato stato o regione del mondo, hai accesso a determinati video, se ti trovi in un altro, probabilmente la ricerca dà risultati differenti. Questo è un esempio. È un'azienda privata, e questo non è un fattore di secondo piano, nel senso che tutto il materiale presente su YouTube è in mano a privati, cioè la Google Inc. fondamentalmente, che ha comprato YouTube nel 2006 e che arbitrariamente può eliminare il materiale o riuploadarlo, non c'è nessun problema. E vabbè, ed è anche uno dei siti più grandi al mondo per quanto riguarda questo genere di video sharing. Tanto più che, vabbè, è cosa normale, ormai anche i telegiornali molto spesso ripropongono i video di YouTube. Cioè, molto più spesso l'informazione passa più in fretta su YouTube che attraverso i media tradizionali, tanto che la riprendono. Per dare la dimensione massiva delle pratiche di utilizzo del sito, è una cosa molto importante, nel senso che il sito è nato nel 2005, è stato acquistato nel 2006, e da allora ha avuto un exploit enorme. Per dare due dati che ho controllato l'altro giorno, ogni mese vengono guardati su YouTube 3 miliardi di ore di video, che vuol dire più o meno 340.000 anni di video ogni mese, e vengono uploadati sul sito 72 ore di nuovi video ogni minuto. Quindi la quantità di produzione di materiale è continua, e ovviamente si tratta in questo caso di quelli che vengono detti cosiddetti UGC, cioè User Generated Content, cioè contenuti generati dagli utenti stessi del sito. E questo è in un certo senso, e molto spesso questi contenuti, almeno per quello che riguarda la mia ricerca sul conflitto, sono testimonianze, sono video di violenza, sono video e video di rielaborazioni storiche, che è molto interessante. Ora, diciamo che l'ambiente online, per come lo sto affrontando io, si presenta in due modi, può essere approcciato in due modi. Ovviamente se parto di fonti, ecco, se consideriamo internet come un classico medium, cioè come un mezzo per trasferire l'informazione da un punto A a un punto B, da una persona all'altra, il problema che si pone una serie di problemi che sono ad esempio appunto i filtri, o il fatto che il materiale può scomparire da un momento all'altro. Per esempio, uno dei video che io ho analizzato nella mia tesi quinquennale, attualmente è completamente sparito, è stato cancellato, perché io ritenuto, ufficialmente se io lo cerco adesso trovo il video è stato rimosso per contenuti scioccanti. Io so che questo non è vero, però lo so solamente io. Quindi quello che prima era la fonte della mia analisi è sparita, cioè, ho capito dalla mia tesi che non vale quasi più nulla adesso, fortunatamente l'ho già discusso, però questo video è sparito, non solo il video, è sparito il titolo, che era Serbia in Israel Unite, che proponeva un parallelo tra la storia di Israele e la storia della Serbia, molto interessante. Non ci sono i video correlati e non esiste nessun tipo di informazione. Fondamentalmente, se cerco l'indirizzo di quel video, vado a finire in un vicolo cieco, che per YouTube è qualcosa di assolutamente anomalo. Nel senso che il sito tipicamente rilancia video, continua a consigliarti spostamenti, e in quel caso specifico quando elimina un video si crea una specie di vicolo cieco. Da lì non posso più procedere, almeno non posso procedere attraverso i suoi consigli, devo fare una nuova ricerca. I problemi su questi tipi di fonti ovviamente sono la verificabilità e la possibilità anche di mantenerle, perché può sparire, e una volta che è sparita non c'è modo di recuperarla, perché non viene dato nemmeno il nome di chi l'aveva uploadata, non c'è possibilità di ottenere informazioni al riguardo, se non andando a chiedere ai proprietari di YouTube di fornire che non sono assolutamente tenuti a dare nessun tipo di informazione, quindi è tra i termini di servizio che tu non hai nessun diritto di andare a chiedere nulla. Ora, ovviamente in questo caso i premi sono di veridicità, di verificabilità della fonte. L'altro tipo di approccio a questo, a quello che chiamo un ambiente adesso, non più un medium, e questo è un pochettino il passaggio che secondo me risulta più importante, ovvero cominciare a parlare di ambiente. Cosa significa? Significa fondamentalmente cominciare a dire che YouTube è uno spazio, viene considerato uno spazio, anche se non è uno spazio in senso tradizionale. E infatti piuttosto che parlare di spazio, piuttosto che parlare di ambiente, cioè di uno spazio relazionale. È uno spazio dove avvengono delle relazioni, si instaurano delle relazioni. Le relazioni non sono solamente fra la pagina e altri video, che vengono messi in campo dentro degli algoritmi, o dalla profilazione utente, o da tutti i dati che Google incamera riguardo alle nostre preferenze, e sulla base delle quali poi va a proporci nuovi video. Faccio un esempio su cosa vuol dire questo in alcuni casi. Nel caso di una situazione di post-conflitto, ad esempio, se una persona continua a cercare video di un certo tipo e continua a visualizzare video di un certo tipo che propongono, ad esempio, una certa visione, pensiamo semplicemente a una ragazza albanese per fare un esempio, lui cercherà video in lingua albanese, molto probabilmente, non in lingua serba o in inglese, la prevalenza sarà in lingua albanese, è molto probabile che i video in lingua albanese propongano la versione del conflitto di parte, giustamente, quella della comunità albanese di vario genere, e YouTube progressivamente continuerà a proporre quella cosa lì, perché impara. Presume che tu stai cercando quel tipo di informazione lì, e anche in caso di altre ricerche, ricostruisci la ricerca sulla base di informazioni acquisite. Quindi tendenzialmente una volta che YouTube comincia questo, si chiama profilazione utente, cioè si chiama un profilo, è molto facile che i vari soggetti continuino a ritrovare materiale coerente nei termini di una ricerca sui video. Ora, cerchiamo di... come si agisce, cioè... Ora, nel caso nel specifico sono interessato all'analisi dei video e dei commenti. Questo è molto interessante. Avvengono delle dinamiche che sono abbastanza inedite da questo punto di vista. Per esempio, le possibilità di comunicazione fra parti che normalmente non potrebbero comunicare. Faccio un esempio. Un video in cui viene rappresentata una violenza palestinese è facile trovare, io l'ho trovato molto spesso, commenti da parte di israeliani, che poi vengono anche ribattuti, c'è cioè un dialogo fra le parti. E non solo, ma anche commenti da parte di persone che hanno subito un conflitto terze, ad esempio i ragazzi albanesi. I ragazzi albanesi, musulmani, tipicamente commentano i video palestinesi e entrano nella discussione. E questo crea molto spesso dei dibattiti estremamente interessanti di tipo anche storico, in cui le varie narrazioni del conflitto vengono messe, come dire, in conflitto nuovamente, vengono ridiscusse. E le varie parti portano la propria versione dei fatti. Oltre a ciò, vengono postati su YouTube un'altra quantità di video fanno una ricostruzione storica, cioè poi tengono di fare una ricostruzione storica, insomma, raccontano nuovamente la storia, tantissime volte. Questo viene continuamente fatto, sono tantissimi, si cerca come parola chiave, storia del Kosovo, Kosovo History. La quantità di video che viene trovata per questo tipo di parola chiave e che tenta di fare questo sono tantissimi. E questi video hanno una funzione non solo memoriale, ma anche fortemente identitaria. Per esempio, uno dei video che un esempio guarda tanti è i diritti storici degli albanesi sul Kosovo, o gli albanesi non sono i liri. C'è tutta una discussione addirittura che parte anche da molto lontano per cercare di normalmente di ricostruire l'identità della memoria e di metterla, c'è la necessità non solamente di averla, di conoscerla, ma anche di esprimerla e entrare in dibattito con le altre storie, tanto più che molti sono video di risposta che trattano argomenti di questo tipo. Ora, uno dei primi, perché la ricerca è ancora all'inizio per quanto riguarda YouTube, ovviamente, è stata una cosa recentissima, anche se ha avuto un esplorato molto veloce. Siamo a Burgess, è uno dei primi ricercatori che sta conducendo una ricerca sistematica sul mondo di YouTube. Ha cominciato a parlare di creatività vernacolare. Ovvero, egli sostiene che fondamentalmente ciò che accade su YouTube in maniera massiva sono in realtà delle dinamiche sociali e memoriali che già avvengono all'interno tipicamente delle piccole comunità, ovvero quella che è il racconto, il racconto anche orale, tanto che si parla di nuova oralità nei casi, per quanto riguarda di più, della memoria, e il tramandare la memoria che non è certamente non viene esattamente da un metodo storico, ma che è memoria di un popolo e viene continuamente però rimessa in discussione non a livello micro ma a livello macro, e questo è sicuramente uno degli elementi più interessanti. Detto questo, l'importanza di questo genere di pratiche dal mio punto di vista risulta dal fatto che mettere in atto pratiche online è una questione di pratiche quotidiane. Cioè, ormai tutti noi penso siamo abituati a quotidianamente a andare su YouTube, utilizzare YouTube, utilizzare materiale informatico e fare riferimento al mondo informatico, agire all'interno di questo mondo, cioè di fatto produrre delle azioni, produrre delle pratiche che entrano poi entrano nella nostra vita quotidiana in maniera massiva e diventano quindi parte della nostra memoria, della nostra identità e della nostra visione sul mondo. Ecco, ovviamente tutto questo si scontra con la discussione storica, in questo senso, avviene a livello non di metodo, ma a livello di contenuti, cioè racconto di storie, avviene continuamente su YouTube. Nel senso che moltissime persone sentono il bisogno di raccontarsi, di raccontare la propria storia, normalmente in termini identitari, ma questa è una cosa che avviene in maniera molto ampia e va a influire poi sulla vita quotidiana di queste persone. Io lo vedo nelle zone di conflitto, soprattutto nella memoria, quello che è stato. Molti dei racconti che io ho ricevuto direttamente da persone che hanno visto il corso in realtà si risalgono a materiale online, e talvolta addirittura casi un po' estremi. Mi sono state fatte vedere delle foto quando io facevo questa ricerca della diaspora albanese e così, che in realtà gli dico, sono le vostre foto queste qua. Ah no, le ho scaricate da internet, però è quello che ci è successo. La cosa mi aveva molto colpito, nel senso che queste persone andavano a ricercare, non avendo le prove di quello che gli era accaduto, andavano a ricercare online il materiale che poteva testimoniare della loro memoria e poi me lo mostrava come parte integrante di essa. Ecco, per il momento diciamo che mi fermerei qui, nel senso che la ricerca è ancora all'inizio.